credo nella pazzia. La schizofrenia è la mia nuova mania. Credo di essere felice, ma è difficile dirlo essendo duplice dentro. E poi non sono la fenice. Quando brucio son morto, e se mi brucio presto non cambia un cazzo a tutto il resto del mondo. Ho gente che mi ama, oppure ci credevo. Ora estrae una lama. Se non pago ogni debito, sono il mio unico critico, e sono io che mi giudico. Non certo uno showbiz ridicolo. Del resto me ne sbatto il cazzo. Se per te signor Vasco è quello che canta un senso, recensisci i miei pezzi, fammi pure a pezzi. Sono io oppure siete voi pazzi, voi, con i vostri intralazzi, le vostre hit a pezzi, i vostri incassi a mazzi, i vostri idoli alla Meneguzzi. Cazzo, quanto siete tristi. Schizofrenici, inevitabile. Siamo un tanto al barile, abbiamo un sogno irraggiungibile. È un mondo invivibile, è un inconscio ingestibile. Crisi depressive ed almeno un facsimile. Schizofrenici, inevitabile. Siamo un tanto al barile, abbiamo un sogno irraggiungibile. È un mondo invivibile, è un inconscio ingestibile. Crisi depressive ed almeno un facsimile. Chiamiamo affetti, ma sono effetti di traiettorie coincidenti, incidenti di percorso. Il mondo è perverso quanto ferro e segue il suo decorso. Ora che la mia vita è distrutta dalla chimica, mi sento precipitare. Ma qui non è Ustica, ho una sola idea fissa, quella di farla finita. Se la strada è in perenne salita, buttandomi dall'alto, credo di averla vinta. Ma c'è ancora da fare, ho ancora ombre da guardare e posti in cui stare, o forse sono solo scuse. Non ho il coraggio di provare, già cico, provare a volare solo per una volta e trovare la pace dopo l'ennesima tempesta. In testa ho due anime che si fanno la guerra, che cessa come una tempesta in fretta, solo nell'attimo in cui mi inchiodano a terra. Schizofrenici, inevitabile. Siamo un tanto al barile, abbiamo un sogno irraggiungibile. È un mondo invivibile, è un inconscio ingestibile. Crisi depressive ed almeno un facsimile. Schizofrenici, inevitabile. Siamo un tanto al barile, abbiamo un sogno irraggiungibile. È un mondo invivibile, è un inconscio ingestibile. Crisi depressive ed almeno un facsimile. Partire per un viaggio, il mondo è grande, questo mi dà coraggio. Parto a maggio, in 80 giorni credo di mutare ciò che sto vivendo. Che fottuto pazzo, schizzo. Tornerò ancora in bilico sul filo del ridicolo. Cerco di spiegarmi ma non mi sento capito. Schizofrenico, inevitabile. Ho crisi depressive che mi uccidono di bile, che mi fanno impazzire, poco poco morire. Sale su carni vive, sono rime su rime, senza alcuno stile, tanto alla fine passerò anch'io la linea di confine. Cerco le signorine ma non sarà un lieto fine. Continuo a chiedermi perché non faccio i soldi con il rap, perché l'amicizia è un bluff, perché non sto più con te. Schizofrenici, inevitabile. Siamo un tanto al barile, abbiamo un sogno irraggiungibile. È un mondo invivibile, è un inconscio ingestibile. Crisi depressive ed almeno un facsimile. Schizofrenici, inevitabile. Siamo un tanto al barile, abbiamo un sogno irraggiungibile. È un mondo invivibile, è un inconscio ingestibile. Crisi depressive ed almeno un facsimile.